YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, ci siamo anche con questa puntata di RadioTube, però questa volta non sei sceso prima, non sei venuto a disturbarmi nel sabato del villaggio. Sono salito questa volta, salito in politica, come, no, cioè in radio, come dicevamo. Si dice ancora, come dicevamo, non è durata pochissimo. Non porta benissimo elettoralmente, ma non diciamo proprio più la frase dell'imperdibile, l'imperdibilissimo. Non lo so, perché sai, poi a un certo punto non si diceva più e hai deciso di cambiare canovaccio. No, anche perché tu mi hai detto che imperdibile non si poteva più dire, quindi io non l'ho più detto, io obbedisco sempre. Che non si diceva più imperdibile, basta, non l'ho più detto. Ma no, l'aveva scritto qualcuno. Comunque noi abbiamo sempre gli stessi account di Twitter, @MartaCagnola, @DiBellasio, cancelletto RadioTube. Invece quello delle due ore precedenti è cancelletto ISDV. L'ho imparato. Guarda, quasi benissimo. Lo cambio oggi... l'hashtag perché ormai no, l'ho imparato. Meglio della tedesco, lo dico. Sei bravissimo. Ecco. Allora, noi siamo andati in onda sabato, come al solito, e invece domenica era la festa della donna. Possiamo dire, visto che sono già un po' di puntate che tiro fuori la donna della settimana. Qual finito è il delirio Madonna. Di Madonna. No, basta, Madonna. È ricaduta, no. No, Madonna, è ancora lì, tutto a posto. Io direi che la donna della settimana per me è Rima Karaki, poi magari non si pronuncia così, dovete perdonarmi, la signora è libanese, io purtroppo la lingua non la conosco. Una che decide di che cosa fare, decide che basta perché lei aveva ospite, leggo perché non vorrei sbagliarmi, Al-Sebai, che è un esponente di una corrente estremista dell'Islam. Lei gli stava chiedendo in particolare che cosa ne pensasse del fatto che nell'ISIS si stessero arruolando anche dei cristiani. Insomma, era un argomento di approfondimento, lui però la stava tirando un po' per le lunghe. Lui sì, pare divagava. Che a un certo punto ha tentato di dirle che siccome era una donna non si poteva a permettere di usare certi toni. Sì, perché toni. Gli ha detto, senta, stringa un po', perché qui abbiamo poco tempo, stringa. Lui, lei non si deve permettere perché è una donna. Sentiamo come ha zittito il suo interlocutore, la signora Rima Karaki. اولا هذه انا بتكلم لكي يفهم اول شيء كيف شيخ محترم مثلك بيقول سكتي لمذيعه معلش كيف بتقول سكتي يعني انا محترم خلاص ما عاد بدي كفي هذا الموضوع beh insomma si capisce che lei gli risponde per le rime. Lei poi ha risposto però intervistata: non mi sento un'eroina ma solo una donna che ha rispetto di sé. Grandissima. Lei ha detto letteralmente: se non c'è rispetto reciproco la conversazione è chiusa. E questa conversazione penso che si possa ancora vedere su Memri TV, che è una TV molto interessante perché svolge un ruolo un po' di informazione approfondita, di anche per far capire che nel mondo armeno le voci sono tante, le informazioni sono di diverso tipo, quindi va seguita. E al di là del fatto che lui fosse un estremista e lei è una donna, mi è piaciuta molto la sua spiegazione, semplicemente da giornalista. Sobria. L'ho interrotto perché avevamo poco tempo, lui stava facendo un excursus storico che non rispondeva alla mia domanda e ho chiuso il collegamento con lui perché è stato maleducato nei miei confronti. Mi sarei odiata se gli avessi permesso di continuare. Chissà quante volte a te in radio è capitato di pensare qualcosa di simile. Sì, interrompere Bellasio. Ecco, sempre io, eh? Sempre lui. Insomma, stiamo parlando un po' di festa delle donne, anche se una settimana dopo, perché ve l'ho detto, noi andiamo in onda di sabato, è stata domenica. Io sono impazzita per questo video della festa delle settimana, donne. Non The Pills. No, non The Vabbè, ma mi piacciono perché tanto. È il nuovo bipolarismo italiano. Mi piacciono chi tanto. Sta con The Pills e chi con The Jackal. Io li adoro tutti, però è che noi ne parliamo da tanto tempo e tu già non ne puoi più. Invece cominciano ad essere super famosi adesso. Assolutamente, no, ne posso ancora, anzi, vediamo qualcosa. Sì, vediamo la puntata dell'8 marzo di Vrenzole. Noi avevamo già parlato di questo Vrenzole. Sì, perché sono le due signore che si parlano da balcone a balcone a Napoli. Che poi in realtà non so, sono loro, ragazzi. A Napoli, sì. Che insomma, in posto. Ecco. In realtà la cosa bellissima è che loro non sono travestiti. Cioè sono no, assolutamente. Anzi, una volta era in box. Sì, jeans, proprio sono loro, barba, baffi, si parlano, però fanno le due signore. a fasi alterne. Alternano un linguaggio normale a un linguaggio un po' isterico. Ecco, allora, per tradurre, perché sono sottotitolate in maniera... però no, dovete andare alla radio, trovarli, non li possiamo mostrare. Una delle due racconta all'altra che alla vicina di casa il marito ha regalato delle mimose spendendo una cifra considerevole. C'erano i sottotitoli. Ecco la reazione. La e il, questo colloquio a tra le due le hanno signore. Regalate le mimose? No, mai. Nessuno? Mai. No, i fiori un paio di volte nella vita sì, ma sentiamo, vabbè, non distraiamoci, Renzole. Vai. Aggiungisi, tuo marito della signora Rimbetto ci ha regalato a Pugliere un mazzo di mimose 150.000 lire. Niente di me. Ah, decine c'è la tutta la gente che è bella, buona, si c'è troppo, non sanno che la trattate femmine e mogliere a pisci in faccia, che le sono pure fa fare, che sono bene, che vanno andare malate, che non sono accesi con una manetta di mimose con cioccolatino, giusto per far vedere solo perché hanno giunto qua a Facebook, che è la festa della donna. Per non parlare di tutte quelle femmine che hanno un poco di interpesi, che aspetta che la festa della donna mi riuscirà a spandare il locale, tutto su, si funziona, la sarà da dare mezzo puntata, ci stanno tutte quelle giorni che aspetta una parte qua, solo perché ci stanno spagliare, lì si capano spagliare, là nulla, non sono tutte quelle femmine che hanno vero loro, tu caro, poi lo lascio, tu hai una capa, gli usa anche se altro fa, 5 minuti, la frumbana! E poi pure la cicoppa all'internet, la femmina è bella, è sacra, non si è andato qua, ma che un giorno non ha preso, stanno tutto quel pezzo di cazzo loro, non apri i per i testi della rendista. Io se volessi ricerca tutta questa gente che sveglia bocca tutti questi belli parole sulle prime una crema e buttate in me. Oh! È arrivato il mio raio, è arrivato! Signore, non mi pigliate il collo! Perché tutto l'uomo lo sono così! Hai traggio! Beh, sei d'accordo, no? Non tutti gli uomini sono d'accordo. Così, sono straordinari. Ma hai sentito che lei, diceva che il marito lui aveva capito che era la festa della donna perché l'aveva letto su Facebook. Tu fai i bei gesti perché poi li metti su Facebook. Ah, era dopo che diceva ho regalato a mia moglie. Ah, perché tu fai queste cose solo per mettere su Facebook. È così. Ma poi le ormai donne in realtà tutti i giorni le maltratti, invece quel giorno li fai vedere che... Per esempio, tutti quelli che mettono i libri, che secondo me poi non li leggo. Io stesso, io metto per darmi un tono, no? No, non che sto per, capito? Ah, poi capisco non leggi, dai però commenti. Tanto ormai l'hai postato. Esatto, e poi capisco dai commenti se vale la pena leggerlo o no. Bugiardo, ti faccio, vabbè, guarda, pentiti nei prossimi istanti perché abbiamo il traffico del villaggio. Può essere un momento di contrizione e poi torniamo insieme per parlare di politica. Con un ospite. YouTube. Te l'ho promesso, Daniele, che avremmo parlato di politica. Sei sempre molto contento quando parliamo di politica e questa volta sono contenta anch'io perché abbiamo un ospite. Sì, che mi piace molto. Dire, abbiamo un grandissimo ospite, ma poi soprattutto questa è la settimana della soluzione, della cassazione, del ritorno, torni in campo adesso, Silvio, tutto ripulito. Poi la settimana delle riforme istituzionali, sì, no, forse dopo domani. Insomma, è una settimana per cui ne dovevamo parlare di politica. Beh, già la scorsa settimana abbiamo assistito al coro quando Silvio è uscito. Sì, giusto, già festeggiava la signora. Sì, già la signora festeggiava. Un'altra cosa, la fine dei servizi sociali. Ecco, adesso, fine dei servizi sociali e assoluzione. Non è che sono proprio finiti, ragazzi, tutti i problemi giudiziari, abbiamo... Però... Ci però sarà abbiamo materia. Già festeggiato con i giovani militanti di Forza Italia che l'hanno accolto a palazzo. Soprattutto giovani, cosa c'entro io? Ma hai sentiamo detto, cosa ha cosa detto hanno fatto. Il Silvio Berlusconi ai giovani militanti di Forza Italia. Ecco qua. Silvio! Silvio! Grazie, Presidente. Io non so perché. Stavo in Italia, quindi... Allora rido, io non so come farvi imbucare al Bunga Bunga, ma vi deluderebbe perché è una cena normalissima. Allora io sì che rimango neanche delusa. Neanche più galante, proprio normale. Cioè mi inviti al Bunga Bunga e poi è una cena normalissima. Che delusione. Che bravo. Allora, che bravo. Sai però chi... Cioè, non lo so. Allora, la scorsa settimana non andiamo ancora all'ospite. Deciso. Andiamo la all'ospite. Scorsa settimana tu mi hai fatto tutta una trattazione su, secondo te, cosa era successo dopo che Silvio Berlusconi aveva terminato i suoi servizi sociali e soprattutto cosa era successo durante. C'è una persona che in televisione fa gli spiegoni. Sì. Sono imperdibili. Stiamo parlando di una delle mie trasmissioni preferite, gli ascoltatori lo sanno, Gazebo. Questo è vero. Rai 3, lo so che rompo tutti con Gazebo, però mi piace tanto. Ci farai tanto. La tesi prima o poi. Mi rilaureo esatto. Per fare una tesi su Gazebo. Lo spiegone di Marco da Milano, uno dei due spiegoni questa settimana, è stato proprio su quello che è successo dopo che Berlusconi ha terminato i servizi sociali. Senti un po' se non è quello che hai detto anche tu sabato scorso, eravate d'accordo. Silvio Berlusconi può finalmente uscire, può viaggiare, potrà fare comizi, potrà fare interviste, potrà fare quello che gli pare. Quindi è finito questo anno di servizi sociali. Ora ti ricordi, era il 9 maggio 2014, eravamo io, te e Marco a Cesano Boscone, c'era un casino circo mediatico impazzito. Nell'istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, e noi dicemmo, vedrai che qui ci siamo venuti oggi e non ci verrà mai più nessuno. Infatti Berlusconi si è fatto tutti questi mesi lì, da solo, senza nessuno. Neanche noi, potevamo andarci almeno, almeno una volta a trovarlo. E ha incontrato chi? Un sacco di invisibili. Malati di Alzheimer, disabili, anziani soli. Tutte quelle persone che lui non aveva mai visto e non aveva mai fatto vedere, perché questo era il paradosso. L'uomo della visibilità incontrava gli invisibili. Poi c'è stata una cosa ancora più paradossale. Piano piano è diventato invisibile anche lui. Beh, era quello che dicevi tu. Beh, lui l'ha detto molto meglio. Vabbè, ma quello spesso lo spiegano di Marco da Milano. Cioè, mica, stiamo parlando di una roba seria. E allora, io con un filo di emozione nella voce do il benvenuto a RadioTube proprio a lui, in persona, Marco da Milano. Buonasera Marco. Buonasera. Però grazie. Possiamo anche dire che l'invia... Io ho un filo di emozione. Mamma mia, adesso, cioè Daniele, vai un avanti, filo tu di batteria. No, del telefono. Però, no, diciamo anche che è l'inviato di punta politica firma dell'Espresso, perché ormai Gazebo si sta mangiando da Milano. Soprattutto l'Espresso. Questa notorietà televisiva, però i tuoi colleghi dell'Espresso come la notorietà mi piace. I tuoi colleghi come l'hanno presa? Perché anche stuoli di donne che hanno fans dappertutto, come l'hanno presa i tuoi colleghi? Ti prendono in giro? Sì, abbastanza, sì, ma poi mi erano sempre lì a faticare, quindi insomma, alla fine se ne fanno una ragione, stanno sereni. Stanno sereni. Allora, abbiamo anche uno spunto di cronaca per parlare con Marco da Milano. Io non ho dormito l'altra notte perché ho passato tutta notte a leggere il suo libro, che adesso è pieno di post-it. Confermo, io lo vedo. Adesso lo fotografo e lo twitto. Marco da Milano, la Repubblica del selfie, dalla meglio gioventù a Matteo Renzi, edito da Rizzoli, con selfie scritto grandissimo. È parola chiave, parola chiave. La parola chiave, perché la Repubblica, che era della rappresentanza, cioè tutti i partiti avevano il loro elettorato che rappresentavano fino all'ultimo voto, è stata sostituita poi dalla Repubblica della rappresentazione, il teatrino della politica, diceva quel signore che era stato a Cesano Boscone fino alla settimana scorsa, il teatrone della politica. Adesso si fonda sull'autorappresentazione, cioè io mi fotografo da solo, dico da solo chi sono, cosa voglio, faccio lo storytelling, cioè la narrazione, racconto la storia di me stesso saltando ogni mediazione, ed è appunto la Repubblica del selfie, la Repubblica fondata su se stesso. Marco, io ingenuamente pensavo di trovarmi davanti, prima di sfogliarlo, davanti a un libro su Matteo Renzi. Invece tu hai ripercorso tutta la Repubblica e Renzi entra nelle pieghe di tutta la storia della Repubblica tra parallelismi e distinzioni, quindi il rottamatore che in realtà ha più punti di contatto con la storia della Repubblica di quanto non possiamo immaginarci a un primo sguardo. È proprio questo il gioco che ho cercato di fare, cioè Matteo Renzi si presenta come l'uomo del futuro, naturalmente l'uomo di oggi e l'uomo di domani, e non ha mai un passato, noi non c'eravamo, in fondo il suo DNA, noi prima non c'eravamo, nei 20 anni precedenti noi non ci siamo stati. Questo è vero anagraficamente, ma è vero che se lo colloghi dentro una storia lunga della Repubblica di decenni, capisci che il renzismo invece non arriva dal nulla, arriva semmai dal vuoto, cioè da molti decenni di vuoto hanno prodotto questa situazione politica in cui un ragazzo di 37, 38, 39 anni fa una scalata e nel giro di 527 giorni dal nulla diventa Presidente del Consiglio. Il concetto di vuoto che tu adesso suggerivi, no, viene spesso associato proprio a chi, o insomma ai prodotti che si autocomunicano. Tu prima dicevi che il pregio, oppure comunque la caratteristica di Renzi, è quello di saltare tutte le mediazioni e arrivare alla comunicazione diretta, e spesso il concetto di vuoto viene proprio associato a chi comunica in questo modo. È un rischio reale oppure è semplicemente un cambiamento? Vuoto, sì, si dice sempre ah, quello è vuoto, quello è leggero, quello è superficiale, certo, e questo riguarda un certo modo di comunicare, ma ancora di peggio c'è il vuoto di quello che c'è intorno. Quindi la cosa principale è che qui in questo paese per 40 anni almeno c'è stato un vuoto di istituzioni, un vuoto di legittimità, i cittadini che non si riconoscono nello Stato, che non si riconoscono nei partiti, che disertano i sindacati, che non leggono più i giornali, che non si associano più, e tutto questo ha creato una situazione che ci porta oggi. Quindi prima di dire il tweet è vuoto ed è superficiale, bisogna spiegare perché quel vuoto e quella superficialità ha conquistato così, in modo così dirompente, il potere in così poco tempo. Questo bisogna spiegarlo prima di interrogarci poi su che cos'è il nuovo potere, quali sono le sue caratteristiche. Prima di arrivare al tweet vorrei chiederti qualcosa sulla TV, visto che poi ti sei trovato appunto quasi per caso, lo dicevamo, a farla la TV. Noi parliamo sempre di Renzi e prima ancora di Berlusconi come di personaggi mediatici oltre che politici che hanno saputo utilizzare benissimo la televisione come mezzo di comunicazione. Ma tu ci ricordi come, addirittura risalendo, sono a pagina 62, alla RAI Fanfani è di casa. Cioè, tu risali proprio al 1954, anno in cui la RAI è nata, il politico è di casa fin da allora. Anche questa è una cosa di cronaca, perché siamo nei giorni in cui Renzi annuncia la riforma della RAI, riportando proprio a quella data che citavi tu, il governo che nomina l'amministratore delegato della RAI, che potrà fare quello che vuole. E tra l'altro me ne ha parlato anche in un'intervista la settimana scorsa sull'Espresso, sì, dove citava il modello Bernabei, una RAI educativa, pedagogica, una RAI che racconta un'idea di Italia. Era l'idea che aveva i democristiani degli anni 50, solo che lì la RAI ovviamente era unico canale, unico in bianco e nero. Renzi dice no, bianco e nero non me l'ha mai detto nessuno, si è molto offeso per questo accostamento calcistico. Per ragioni di Fiorentina e Juve, vero, no? Lo possiamo la Cagnola. Io sono un po' più lenta in questo, ma poi ci arrivo. Ma perché una caratteristica dell'Italia, che ogni sistema politico e ogni forma di leadership ha avuto il suo strumento comunicativo, quindi la DC pedagogica, cattolica, l'ideologia delle buone notizie, la famiglia, aveva la RAI degli anni 50, degli anni 60, che comunque rispecchiava abbastanza bene la complessità di un paese che era in pieno sviluppo economico. Poi naturalmente la TV commerciale di Berlusconi, lì addirittura a un certo punto la TV commerciale si è fatta partito, o almeno per certi versi non sovrapponibile, ma ha avuto lo stesso modo di comunicare in alcuni modi gli stessi personaggi. Renzi è oltre anche la televisione, è già nell'era del social network, del saltare le mediazioni. Renzi è già Twitter, e già parlo senza il media, parlo io direttamente, saltando pure le telecamere, saltando la calza sulle telecamere. Marco, tra qualche istante ritorniamo con te, perché voglio chiederti proprio qualcosa su questo argomento, però adesso abbiamo una brevissima pausa e ci risentiamo tra pochissimo ancora con Marco da Milano. YouTube. Rieccoci insieme con il nostro RadioTube, dai, lo dico, il perdibile, l'imperdibile, l'imperdibilissimo, eppure molto molto molto di perdibile, della TV, della rete e dei social, ormai tutto insieme, con Marta Cagnola, con Daniele Bellasio e con un ospite che a me piace tantissimo. Al telefono, tantissimo, l'inviato politico dell'Espresso, firma di punta, autore de La Repubblica del Selfie, dalla Meglio Gioventù a Matteo Renzi, Marco da Milano. Io vorrei, Marco, ci sei? Daniele, certo. Io vorrei farti fare un gioco non molto intelligente, lo dichiaro subito, però agli appassionati di politica e anche un po' della storia politica può piacere dibattere su, ma alla fine Renzi a chi assomiglia? Sicuramente a Fanfani, nel mio libro ci sono molte pagine, ho fatto delle ricerche strabilianti, delle somiglianze strabilianti, una certa concezione di sé, la toscanità, la rottamazione del vecchio gruppo dirigente, De Gasperi che nel 1950... Le tre cariche, che Fanfani era addirittura anche ministro degli esteri, era segretario della DC, presidente del consiglio e ministro degli esteri. Ma tipo Renzi deve averlo un ministero ad interim, quindi è perfetto anche in quello, quello delle regioni, quello della Lanzetta. Interim, diciamo, sì. Quindi. Ma addirittura De Gasperi nel 1953 aveva non vinto le elezioni perché non era scattato il premio della legge elettorale, la mitica legge truffa, quindi era un po' come Bersani e fu rottamato da Fanfani e dal suo gruppo. E quindi questo è un personaggio che sicuramente gli assomiglia. E poi un altro punto, il partito della nazione, il 40%, certo, che prese Fanfani nel 58, che Renzi ha riconquistato nel 2014, è un certo sapore di anni 50, cioè la ricostruzione, siamo usciti dalle macerie, adesso ce la facciamo, una certa idea di buona famiglia, di buoni sentimenti, un racconto positivo sull'Italia contro chi vedeva lo sviluppo economico come una catastrofe, mi riferisco in quel caso ovviamente al Partito Comunista che insomma era contro le autostrade, contro la televisione, contro la motorizzazione di massa, era sostanzialmente contro il progresso, pur essendo il partito di sinistra, quindi per definizione progressista. Quindi c'è una similitudine di personaggi e similitudine di fase. E poi, se vogliamo arrivare a paragoni più recenti, beh certo, c'è tutta la questione Berlusconi, ma quella la vedo molto, molto banalizzata. Sicuramente Berlusconi considera Renzi una sorta di erede e sicuramente Renzi, rottamatore, non ha mai neanche lontanamente accennato alla volontà di rottamare Berlusconi. Anzi, ne approfitta magari della cosa, di sembrare un erede. Allora, a questo punto io vi farei sentire cosa ha fatto Max Paiella, il comico di servizio che va a servizio pubblico, perché ha fatto Renzusconi. Quindi vorrei sollecitarvi su questo personaggio ibrido che si è inventato Max Paiella. Sentiamo appunto questo Renzusconi. Ma scusate, anche il corpo umano è formato da tanti minerali: calcio, sodio, potassio, stronzio. Lo stronzio manca mai, vive e lotta con noi. Bello questo interscambio tra partiti, perché questo è il senso della democrazia. Quando gli stronzi sono equamente divisi negli schieramenti. Io sono sicuro che questo paese potrà ritirarsi su solamente con l'ottimismo. È il momento di ritirare su l'economia, di ritirare su il PIL, di tirare su la fiducia degli italiani. Posso consigliarvi dei prodotti che, presi 5 minuti prima, tirano su davvero tutto. È il momento di rinnovarsi, è il momento di fare come quando si giocava a calcetto. Dopo un po' che una delle due squadre perde, mischiamola con l'altra, come la gazzosa golfino che sa di tappo. Noi siamo gazzosa, ci mischiamo col tappo. Vabbè, la battuta gazzosa tappo era un po' anche prevedibile. Lo stronzio, il sodio. Sì, però questo era il concetto che tu vuole. Ma in realtà pare che non sia più così, eh? Ma dopo... infatti voglio anche capirlo, perché come giustamente sottolinea Marco da Milano nella Repubblica del Selfie, tutto risale alla conferma di un disegno occulto che porta direttamente da Berlusconi e Renzi, e la partecipazione di Renzi alla ruota della fortuna. Sì, certo. Beh, e Bildenberg aveva detto. Esatto. Beh, è un aneddoto, però alla fine, insomma, gran parte della parte finale del tuo libro poi alla fine inevitabilmente deve veleggiare su questo parallelismo che c'è, non c'è, Marco? Beh, lui Renzi, se ricostruendo la sua biografia rapidamente, lui è sicuramente attratto dalla politica, quindi è un ragazzo degli anni 70 che è molto particolare, perché in realtà i suoi coetanei in quel periodo non si interessano affatto della politica. È una fase in cui pochissimi giovani hanno questa mania. Lui ce l'ha, è uno che a 17 anni scrive che Forlani se ne deve andare. Non solo c'ha la mania della politica, ma non è neanche a sinistra, addirittura è un democristiano. E c'ha la mania della rottamazione già a 17 anni. Ma ha delle strane perversioni, gli piace la politica, gli piacciono i congressi della DC, parla di Forlani, però nel 94 ha il suo battesimo di fuoco televisivo alla trasmissione di Mai Buongiorno, alla Ruota della Fortuna. È una cosa che mi ha colpito quando ho fatto questa associazione, è che due anni prima, e qui introduco un elemento ovviamente molto un po' più pesante, il deputato socialista Sergio Moroni, che si era suicidato perché protestava contro la brutalità delle inchieste giudiziarie di Tangentopoli, scrive: non è possibile che una classe dirigente sia eliminata come alla Ruota della Fortuna. E allora questa associazione, cioè la Ruota della Fortuna, che volta le spalle a una classe dirigente, quella della Prima Repubblica, e girando consegna il potere a Silvio Berlusconi, e vent'anni dopo a un personaggio che ha esordito in televisione in una trasmissione che si chiama così, mi sembra, sì, è una suggestione, ma mi sembra anche che racconti qualcosa della nostra storia recente. Per non citare quelli che invece preferivano doppio slalom, perché anche lì qualcuno... L'altro Matteo, certo. Ma come Matteo, Matteo Salvini, sì, ha esordito... sulle nuove frattocchie, i loro coetanei di 30 anni prima facevano le frattocchie, i movimenti studenteschi, le assemblee, e questa è una classe dirigente, ma lo dico senza dileggio, non lo dico in senso negativo, perché è la modernità ed è il crisma di questa generazione. No, anche perché poi tornava a casa dalla Ruota della Fortuna e, come dicevi tu prima, si leggeva i documenti di Forlani, discuteva, cioè quindi... della Lega, magari, nel caso di Salvini. Esatto. Ecco, beh, d'altronde... È una cosa molto seria, perché è l'unico partito rimasto. Beh, bisogna vedere se è uno o due adesso, però, Marco? Sì, certo. Io vi voglio riportare sulla questione che avevamo lasciato in sospeso prima della pausa, cioè l'utilizzo dei social network, e ritorno a Gazebo, alla trasmissione in cui vediamo sempre Marco da Milano, perché qualche giorno fa io sono risalita al 22 febbraio, perché avete fatto la Social Top 5 speciale di un anno di Renzi, quindi vorrei sentirne un pezzettino, perché io mi sono divertita come una pazza, eccola qua. Una top 5 che mi si agevola con la partecipazione del boss anche dello stage. Dunque, Matteo Renzi, arrivo, questo era quello famoso, stava lì con Napolitano, tutti fuori, noi. Arrivo, ti ricordi? Nulla di personale, dice mio padre pronunciò le stesse parole, poi si è pentito, ok, andiamo avanti, vediamo un altro, numero 4, Matteo Renzi, grazie presidente, qua si ringraziava Napolitano. Si è dimesso Napolitano. Lucia Limboscov dice: Fiorentina ha comprato un nuovo attaccante? Perché poi quando parla Renzi non si capisce mai. Qua una serie di risposte a sfondo a tema sportivo, calcistico, qua per l'Italia, la sua storia, il suo futuro, chiedo rispetto, anzi pretendo il rispetto che il paese merita. Europa, Giorgio P dice: giusto Renzi, almeno 4 squadre in Champions, io un po', perché è sta cosa che sotto col 3 poi una se la rischia sempre, non è bello. Grazie alle deputate e ai deputati hanno dimostrato che possiamo davvero cambiare l'Italia. Politica 1, disfattismo 0, questa è la svolta buona. Zio Titti dice: sì, ma in trasferta non famo catenaccio, almeno un gol bisogna farlo. Perché poi è facile, fai l'1-0 in casa e poi... Beh, è impossibile non tornare a questo argomento, anche perché il titolo del tuo libro ce lo suggerisce subito, La Repubblica, certo, del Selfie, quindi certo. I social, l'uso dei social, da quell'arrivo appunto all'alba, la foto twittata, le foto di Filippo Sensi, non FUP, che hanno una loro... Certo. Che ne pensi, Marco? Raccontano, sono la testimonianza della storia di questo anno, in passato, non so, Andreotti ha pubblicato i suoi diari, probabilmente in futuro saranno ripubblicate le foto di Filippo Sensi o i tweet di Matteo Renzi, che sono il suo diario quotidiano, il suo breviario del suo governo, e che sono qualcosa di più di un semplice messaggio comunicativo, sono anche un contenuto in sé. Dire mentre sei nel salone con Giorgio Napolitano, stai facendo la lista dei ministri, arrivo ai giornalisti che stanno dall'altra parte della vetrata ad aspettare, è un contenuto in sé, perché non era mai successo. Dai diari di Andreotti alla timeline di Renzi. Straordinario, il segno dei tempi. Marco, grazie per essere stato con noi. Ricordo il titolo, La Repubblica del Selfie, dalla meglio gioventù a Matteo Renzi, edito da Rizzoli. Grazie a Marco da Milano per essere stato con noi. Grazie, ciao. Daniele, noi ci ritroviamo tra poco però, perché già è il momento del traffico. Stupendo. E poi ma di Veltroni non parliamo. Parliamo anche di Veltroni, tra pochissimo. Parliamo di bambini, tra pochissimo. YouTube. Ma vola proprio tantissimo questo tempo. Tutte quando le tre diverte. Ore che ho faticato oggi. No, guarda, scherzo. Veramente. Vabbè, dai, proprio ti stanco. In giro. Stiamo creando il caso umano della lavoratrice cagnola. Che per tre ore. Ma adesso, però, andiamo a parlare di argomenti che ti sono cari, tipo il cinema. Io ho proprio una domanda. Pensavo tipo i bambini. Credevo mi stesse prendendo in giro. Perché no, non il sono cinema. Proprio così. Il cinema. Perché sei cattiva con i bambini? No, chiedo a tuo nipote, no, su no, tuoi nipoti. I miei nipoti. No, mi piacciono i bambini, alcuni, non tutti. I tuoi parenti. Allora, cinema, perché cinema. Io ho una domanda molto seria. Tu manda il video, poi ti faccio la domanda seria. Allora, spieghiamo di cosa si tratta. Dopo un documentario che a me è piaciuto tantissimo quando c'era Berlinguer. Ci siamo schierati, abbiamo detto, era bello. Sì, abbiamo proprio preso una posizione in favore del documentario di Walter Veltroni. Walter Veltroni torna al cinema, tornerà il 23 aprile, distribuito da BIM con un altro documentario, un però docufilm. C'è già il trailer. Sì, c'è il trailer, si intitolerà I bambini sanno ed è il mondo vero. Con gli occhi dei ragazzini. Questo è solo una piccola parte del trailer che è lungo, che è bello, che è interessante. Vabbè, tra poco la domanda di Daniele Bellasio, però intanto sentiamo un po' il sapore di questo I bambini sanno. Cosa serve nella vita per essere felice per te? Sognare. Ho scritto ci sei, allora mi scrivi, lei non mi ha mai risposto. E perché non ti rispondeva? No, perché non l'ho mai saputo, però credo che non aveva il cellulare. Con chi sei sposata, tua mamma? Con mia mamma. Sì, in questa società siamo tutti che non capiamo nessuno, ci conosciamo solo su Facebook. Tu cucini da solo? Sì. Che sai cucinare? La cotoletta. Tu hai sentito parlare della crisi, me ne parli un po'? Dovrebbe fare un po' una rivolta con me. Voi state molto insieme? Sì. Perché noi siamo sorelle. Eccoli i bimbi di Walter Veltroni, tutti tra gli 8 e i 13 anni. È rischiosa, eh? Beh, avere a che fare con i bimbi è sempre avere difficile, a che fare... eh? E poi... perché non è originalissima di per sé, quindi deve essere molto bravo. Ma la domanda la vuoi? Sì. Ma perché sta... come dire, si sta diffondendo la moda, il fenomeno del docufilm? Io una risposta ce l'ho, però mi interessa la tua. Ah, perché tu vuoi sapere... Beh, allora, dal mio punto di vista biografico, è autobiografico... Ah, io... giusto, non ci avevo pensato. Il televisore. Sì, la mia mania di mettermi a fare documentari è stata perché io dico che il documentario è la crisi di mezza età del giornalista, cioè il ciringhito del giornalista. Quindi è la crisi di mezza età del politico Veltroni, no? No, Veltroni semplicemente è tornato alle origini, perché allora, il suo primo amore era il cinema. Sì. No, c'è voglia di realtà, secondo me. C'è voglia di realtà e finalmente anche l'industria cinematografica e della distribuzione italiana ha capito che la gente i documentari li va a vedere molto volentieri anche al cinema. Però è colpa della rete, è sempre colpa della rete, perché la rete, la realtà, ce la racconta frammentata. Noi dobbiamo farci i nostri palinsesti personali, mostrare a RadioTube pezzetti di video. Poi si vuole un racconto complessivo e con un filo che lo dipinge. E per questo torna, bello, torna mi piace il docufilm, una, non lo so, una visione. Magari ne faremo uno assieme vita. Un giorno. Chi lo sa, un dietro le quinte di Radio Tube. No, vabbè, quello oggetti, è meglio di no, perché, che no, volano, perché lo Filippo poi si arrabbia. Allora, per... 23 aprile, preparati, sì. I bambini sanno. E invece bisogna aspettare ancora un po', 12 febbraio 2016. Per? Uff, ecco, arriva Zoolander 2. Ecco, questa cosa 2. Non ho capito, io l'avevo visto 15 giorni fa, anche se è un film vecchissimo, per caso. Ma vecchissimo. No, è uno dei film più divertenti degli ultimi anni del cinema. Che è piaciuto però soprattutto alle donne. Ma non è vero, non credo, io sono impazzita per Zoolander. L'anno scorso, l'estate scorsa, ti ricordi, ero stata al Festival di Taormina, avevo cercato di chiedere a Ben Stiller. Tu che lavori sempre, dici. Sì. Sì. Come sono andata? Beh, sì, Taormina è un bel posto, sì, che lavoravo. Certo. E a Ben Stiller avevo cercato di chiedere, dai, dici, confermaci se fai. Ah, perché c'erano 2. I rumors. Da 10 anni sto a Zoolander 2, ma non lo voleva mai confermare. Questa settimana è arrivata la conferma, sai come? Ufficiale, con un tweet immagino. Non no, so. No, no, con un video che hanno line, messo online. No. Sì, prima un Vine e poi un video completo. Dobbiamo di loro mostrarlo che riproducono, in inglese. Non riproducono. Dobbiamo mostrarlo in inglese. Mostriamolo in inglese. Tanto. Come in. Hi guys. Hey Anna. You ready? Totally. Okay, let's see the walk. Well, I'm gonna keep it simple today. Usually I go right, left, right, left, right, left. But today I'm gonna start left in honor of how the sun rotates. Allora, sono Derek Zoolander e Hansel, sono i due super fighissimi modelli, cioè Ben Stiller e Owen Wilson, che nei panni appunto di Derek e Hansel hanno partecipato alla Fashion Week di Parigi. La signora Anna era veramente Anna Wintour, no, e hanno finto un backstage della sfilata e hanno fatto proprio il video della sfilata vera, la sfilata, sì, e l'hanno postato su Vogue. E come sfilavano? Beh, stile Zoolander. Ah, cioè. Perché c'è la blu stile, ma ci sono tutte le pose per le foto, eccetera. E però dobbiamo aspettare ancora molto 12 febbraio 2016. Ma poi lo 2016. Usano come trailer, no? L'hanno usato no, come questo, leak, come, sì, sì, come si leak, può dire. Sì, sì, come di svelamento così in rete. Dai, voglio concludere, abbiamo gli ultimi minuti. Sì, concludiamo, leggo qui e sono preoccupato dal copione Super Sesso. Quindi super io esco, sesso. Vi saluto. È Beh, stato, Super Sesso perché, come si dice, chiudiamo in bellezza, visto che l'ora. Per siamo quasi in fascia protetta. 70, io ti mostro alla radio la locandina. Ma c'è solo la locandina? Super c'è solo 70. La locandina e il trailer. Mario Stallion si dice. Come si dice? Allora, c'è solo la locandina e il trailer. Mi è arrivata la segnalazione dalla rete, da una mail, di questo fundraising. Cioè, praticamente in rete c'è questa iniziativa, sì, di Nicola Piovesan, che mi ha mandato una mail e al quale faccio veramente un grosso in bocca al lupo, perché ha deciso di finanziarsi tramite la rete questo film che sarà una parodia dei film erotici anni 70. Beh, il titolo dovrebbe chiamare Super Sesso 70. Vabbè, ascoltiamo un pezzettino del titolo, trailer. Ho d'aiuto. Solo uno eroe può ritornare liquido de piacere. Pronto? Destino del mondo, tenere le tue pantaloni. I am so sorry. Don't worry. Allora, non è un film erotico, non è un film spinto, perché c'è scritto nel fundraising. Cioè, dice, fishing, questo sì. Di titolarlo Super Sesso. No, è una parodia, lo dice, guardate che non sarà un film porno, no, non sarà una parodia. No, però insomma ci vorranno un po' di soldini per farlo. Quanti? Perché allora lui deve raggiungere $200,000, per ora ne ha raccolti 1,000. E quindi noi facciamo, si parte da poco, sì. Quindi noi facciamo un appello e addirittura? Sì, ma chi tu vuole? Hai donato? Ah certo, adesso gli faccio, sì, ma la faccio in diretta. E poi twitti, l'ho ricevuta. Ma certo, Nicola Piovesan, veramente un grande in bocca al lupo per questo progetto, mi piace molto. E vediamo cosa riuscirà a succedere di questo Super Sesso 70, ovviamente una parodia, sono veramente un grande in bocca al lupo. E quindi siamo incamminati lentamente in questa puntata in cui abbiamo parlato di tutto al weekend. Tu che farai? Io mi riposo. Io dormo, è già mi riposo. Questa cosa. Allora, io dobbiamo forse scio, sai. Oh, ancora. Che noia, sempre a sciare. Vabbè, dai, che ormai è primavera, sono le ultime sciate. Dobbiamo ringraziare Filippo Auregi in regia, dobbiamo salutare tutti. È finito Radio Tube, è finito il sabato del villaggio. Sì, e ci vediamo, ci sentiamo sabato prossimo. Sabato prossimo. Podcast subito, no? Podcast subito, a sabato prossimo. Ciao.